Francesco Torrigiani, di Firenze, Città Aperta. Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti e grazie. Grazie a te, se puoi spiegare brevemente di che cos'è Firenze, Città Aperta. Benissimo, Firenze Città Aperta è un'associazione politica la cui origine risale al Firenze Social Forum, quindi siamo all'inizio degli anni 2000, in cui si sono, diciamo, condivise le basi per quello che poi è diventata negli anni successivamente, appunto, l'Associazione Firenze Città Aperta, che ha portato avanti una serie di iniziative sul territorio toscano, tenendo insieme varie parti della sinistra fiorentina. Per andare allo ieri, poi nella scorsa tornata elettorale e elezioni comunali, abbiamo appoggiato insieme ad altre forze della sinistra fiorentina, come Sinistra Italiana del Potere al Popolo, la candidatura di Antonella Bundu al Consiglio Comunale. Questo che ha portato, crediamo, un buon risultato in termini numerici, ma non solo, e ha portato all'elezione di due consiglieri in Consiglio Comunale, appunto Antonella Bundu e Dimitri Palagi. E cinque consiglieri sette consiglieri nei cinque quartieri fiorentini, sempre legati appoggiando quindi il gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune di cui facciamo parte. Io personalmente sono anche consigliere al quartiere 1. Bene, allora, riguardo al comunicato stampa che è stato diffuso proprio ieri, da Firenze Città Aperta, si intitola Requisire per meglio curare 1.000 posti letto, quindi come creare 1.000 posti letto, 1.000 alloggi per contenere l'emergenza e la diffusione del coronavirus. Spiegaci un attimo il perché avete fatto questo tipo di proposta e anche che cosa prevede. Ci sono tutta una serie di edifici che potrebbero essere requisiti sia di enti pubblici che anche privati. Sì, innanzitutto una premessa, se vogliamo, di tipo politico. Lunedì, durante il Consiglio Comunale, è stato chiesto a tutti i gruppi consiliari, i gruppi politici di avere atteggiamenti, diciamo, responsabili, costruttivi, data la situazione assolutamente critica nella quale ci troviamo. E quindi crediamo che aver avviato, diciamo, questa nuova fase con una proposta concreta che guarda avanti e non guarda indietro sia coerente con questa richiesta. Noi partiamo dalla considerazione che il Comune sta facendo delle cose, sta facendo abbastanza bene per garantire dei posti letto. Le esigenze sono diverse, chiaramente, quindi andiamo dai familiari dei medici o degli operatori sanitari che hanno bisogno, per ridurre il rischio di contagio, di essere separati dai loro cari, alle persone che magari risultano positive e che al momento si trovano alloggiati presso delle RSA, cioè residenze sanitarie assistite, o presso centri di accoglienza per migranti e ospiti di alberghi popolari. Quindi persone che, se risultano positive al virus, hanno la estrema necessità di essere isolati, perché altrimenti chiaramente la diffusione sarebbe fuori controllo. Il Comune ha già avviato in particolare due iniziative, una degli accordi commerciali con proprietari di alberghi per posti letto, e anche la costruzione di che sono stati comunicati, insomma, sono stati visti anche dagli abitanti di Viale Guidoni, dei container dove attualmente sono ospitati i volontari della Croce Rossa di Bergamo che stanno appoggiando, diciamo, l'emergenza qua a Firenze. Quindi crediamo che questa sia una prima risposta, ma crediamo e temiamo che possa non essere sufficiente, quindi che sia necessario, con un approccio nuovo legato all'esigenza, diciamo, imprevedibile che stiamo vivendo, qualcosa di più incisivo per garantire quei 1.000 posti iniziali che crediamo siano necessari, per non farci di nuovo trovare impreparati. Nel caso che auspichiamo ovviamente che la nostra proposta sia totalmente inutile, ma temiamo che non sia così, sia appunto necessario allargare il numero di Nello posti. specifico? Nello specifico, appunto, ricordando appunto che la nostra proposta identifica soluzioni diverse per esigenze diverse, quindi si va da le case popolari di Via dei Pepi che sono vuote, che sono già immediatamente disponibili, che potrebbero per esempio essere molto adatte per ospitare i familiari dei medici, a strutture della regione toscana attualmente vuote, messe in vendita come Villa Basileschi, che invece con interventi limitati può anche servire a, diciamo, delle capacità anche sanitarie diverse, quindi migliori ovviamente, può ospitare anche persone positive da tenere in isolamento. Quindi ecco, alla fine noi abbiamo individuato, e bisogna riconoscere il grande lavoro di Tommaso Grassi, che conosce gli immobili fiorentini e sa dove accedere alle informazioni pubbliche che li riguardano, una serie di soluzioni, caso per caso, che auspichiamo che possano essere accolte in primis dal sindaco e dalla giunta, in modo che poi possiamo andare a approfondire, a vedere sul posto un sopralluogo, quello che è possibile fare. È chiaro che ad oggi non è possibile così, sulla base di un impegno, una passione politica volontaria, andare a fare questi sopralluoghi per evidenti motivi. Quindi, sapendo che non è il sindaco che poi decide questo tipo di interventi, queste requisizioni, che si apra una discussione che poi il sindaco, se fosse d'accordo, portasse, diciamo, per esempio al prefetto, alla prefettura questa richiesta, in modo che poi possa essere messa in pratica. Ricordo anche che nel decreto Cura Italia è prevista all'articolo 6 la requisizione anche di strutture private dietro una compensazione che viene data al privato. E se andiamo a vedere il valore di questa compensazione, il costo di questa compensazione, questo è pari allo 0,42% del valore dell'immobile. Sottolineo valore dell'immobile, non valore dell'attività che viene svolta. Quindi, ad esempio, noi abbiamo anche fatto cena agli student hotel, che al momento sono nuovi e totalmente vuoti al momento, evidentemente. Se ammettiamo un ordine di grandezza di un valore di un bene di questo tipo di 10 milioni di euro, vuol dire che al mese costerebbe 42 mila euro, che non è certo una cifra simbolica, ma se guardiamo quanto costano ogni 2 mesi i container in Viale Guidoni, sono 78 mila euro. Si capisce che il paragone fronte a una spesa leggermente più alta al mese di poche migliaia di euro, abbiamo un albergo con tutte le condizioni, nuovo tra l'altro. Quindi è chiaro che ci sarebbe un vantaggio per il bene pubblico, per la collettività, e questo permetterebbe questa iniziativa anche di valorizzare, un termine un po' fuori luogo, ma il concetto è quello dei beni pubblici o privati che al momento sono in disuso e sono pronti o quasi pronti a accogliere queste nuove necessità, che purtroppo sappiamo quanto sia insidioso, contagioso questo virus, sappiamo come sia difficile fare previsioni sulla sua diffusione, quindi è chiaro che è necessario avere un piano in caso che la situazione lo richieda, ripeto, non farsi nuovamente trovare impreparati. Senti, un po' l'ultima, una domanda riguardo al tuo ruolo, nel consiglio di quartiere. Che cosa sta succedendo nei consigli di quartiere? Come vi siete organizzati? E se poi anche la situazione ti sembra adeguata al contesto? Senti, allora il Consiglio Comunale si è riunito lunedì in seduta, diciamo, a distanza, dopo che nelle settimane precedenti aveva funzionato, diciamo, la conferenza dei capigruppo per rispondere alle esigenze più immediate, ovviamente tutto a distanza. I consigli di quartiere, le commissioni sono fermi da circa un mese, anche qui i motivi sono assolutamente comprensibili. Ci sono stati in alcuni quartieri, non è il caso del quartiere 1, delle conferenze dei capigruppo fatte a distanza, quantomeno per informare poi il sindaco e la giunta delle emergenze più prioritarie dei singoli quartieri. Chiaro che il quartiere è un ente di prossimità, non ha budget, non interviene, ma può portare a livello comunale i problemi della cittadinanza. Nel quartiere 1 questo non è avvenuto, auspichiamo che gradualmente, ieri c'era in discussione la conferenza per il decentramento a cui hanno partecipato i presidenti dei consigli di quartiere, la possibilità di riaprire le attività istituzionali. Personalmente, capendo che i problemi sono altri e che non sia stato finora prioritario realizzare i consigli di quartiere, forse è il caso di ripartire, perché la politica a questo punto non dovrebbe fermarsi, le risposte alle emergenze sono in qualche modo politiche, quindi è utile, crediamo, un confronto anche fra maggioranza e opposizione, perché è chiaro che il fare squadra è fondamentale, e quindi riapriamo questi spazi con tutte le prudenze, ovviamente anche le tempistiche, e soprattutto pensando ad affrontare per prima i problemi più prioritari. Io ritengo che questo sarebbe utile, per appunto proprio per quello che ho detto, perché comunque la politica non può, deve rispettare l'emergenza, ma deve anche affrontarla, e quindi senza che si fermi il dibattito politico, ovviamente andando al di là delle polemiche, delle divisioni che ci possono essere, ma cercando appunto di fare squadra. Senti, ultimissima domanda, la questione degli affitti, visto che il quartiere 1 è uno forse il luogo dove, in città dove gli affitti sono più alti, abbiamo visto anche una grande espulsione degli abitanti dal quartiere. Come può essere fronteggiato questo problema, visto che tante persone si stanno trovando, essendo inizio mese, in grosse difficoltà nel pagare il canone? Senti, intanto giustamente rilievi un fatto, un modello di sviluppo che ha portato soprattutto nel centro storico di fatto all'espulsione di molti degli abitanti che non erano più in grado di pagare l'affitto perché ha aumentato a causa, diciamo, della forte domanda turistica. È chiaro che in questa fase anche da parte della maggioranza abbiamo sentito discorsi saggi che fanno capire che un po' si sta per il dopo ripensando questo sviluppo che si basa su poche risorse, è chiaro che il rischio è molto alto. Auspichiamo che ci sia da parte del Comune un'indicazione politica perché comunque anche a livello centrale ci si attivi con dei fondi di emergenza per le famiglie più povere che non sono in grado di pagare l'affitto. Auspichiamo da parte dei proprietari degli immobili una massima solidarietà e comprensione, perché comunque in queste situazioni bisogna tutti darsi una mano. E quindi auspichiamo anche un messaggio esplicito da parte del comune e quindi, se possibile, anche l'attivazione di risorse comunali. Sappiamo che anche questa situazione ha causato una riduzione delle entrate nelle casse comunali e auspichiamo che anche dal livello centrale ci sia un auspicio, un supporto concreto, un'iniezione di fondi proprio per queste emergenze sanitarie, cioè, emergenze sociali. Sappiamo che già ci sono anche nella città di Firenze situazioni gravissime di insicurezza alimentare, di fame, ci sono famiglie alle piagge che hanno già estrema difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Quindi questa situazione è nota anche al comune, è nota all'assessore Vannucci, quindi ecco, ci sono tante situazioni e quello che è importante è che poi ovviamente si cerchi di evitare che qualcuno possa approfittare in qualche modo di questa situazione, perché è chiaro che il mercato degli affitti, il mercato degli immobili è cambiato drasticamente, quindi qualcuno potrebbe essere invogliato di approfittarne. Speriamo che questo non avvenga, però il rischio esiste, lo sappiamo. E è chiaro che anche rispetto alla situazione alimentare, io faccio una riflessione a titolo totalmente personale. È evidente che i supermercati in questo momento in qualche modo hanno probabilmente incrementato le loro vendite perché i ristoranti sono chiusi, molti quindi la gente mangia a casa, sta sempre a casa. Io lo vedo nel mio piccolo, il consumo di cibo, essendo tutti e cinque a casa, è raddoppiato, spendiamo di più. C'è un sovra reddito per alcune categorie, come ad esempio i supermercati, potrebbero forse anche loro un parte di questo rivolgerli alla popolazione meno abbiente che ha difficoltà, ripeto, a arrivare a fine giornata perché non potendo uscire e non potendo lavorare, è chiaro che i soldi poi per il pranzo e per la cena non ci sono. Ci sono iniziative anche in altre città, come a Roma, auspichiamo che anche queste siano replicabili a Firenze, perché realmente si teme un'esplosione anche di situazioni sociali veramente, veramente drammatiche. Bene, grazie. Allora ti auguriamo buon lavoro a te e a tutto il gruppo Firenze Città Aperta e Grazie cercheremo mille, di. grazie a voi per questa intervista. Speriamo che la nostra proposta delle requisizioni possa essere discussa, portata avanti. È chiaro che parlarne, come in questo caso, grazie a voi, è utile per ovviamente insomma, farla conoscere e poterla poi discutere con le istituzioni. Bene, grazie. Arrivederci, buonasera. Ciao, arrivederci.